Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Caro direttore, mi è difficile capire cosa significhi essere clandestino in Italia. Se valutiamo il lato umano, tutto diventa concedibile, ma se consideriamo le regole che dovrebbero condizionare la vita della società, come si può accettare tutto? Che differenza c'è fra un regolare ed un clandestino, se la sanità gratuita deve essere dovuta a chiunque, se i bambini di tutti hanno il diritto di frequentare asili e scuola? Che cosa serve stabilire dei divieti e dei limiti se poi non li si rispetta, se poi li si tiene in Italia anche dopo averli rintracciati? Il clandestino è una persona che non ha titolo a stare su un territorio straniero, credo. E allora perché dovrebbe avere gli stessi diritti di chi può farlo in quanto ha anche doveri da rispettare in cambio? Non si tratta di mancanza di umanità, ma di non lasciarsi rapire da quel finto buonismo che poi fa star male tutti, anche chi a fatica si è guadagnato la possibilità di essere accolto secondo i regolamenti. Chi ragiona così, però, passa da cattivo, quasi da razzista, ed è più comodo agli occhi degli altri passare da buoni. Non crede anche lei? Giulia. Il sempre più esteso imbarbarimento della vita sociale e politica di questo disgraziato paese, pur se iniziato ad opera di movimenti estremisti un tempo marginali, ma che ora marginali non lo sono più, a questo punto coinvolge larghi strati della popolazione, cattolici compresi. Ma noi credenti non abbiamo nulla da dire al riguardo? Dobbiamo rassegnarci ad assistere inerti alla deriva che ci sta trascinando? Non sono forse valori non negoziabili anche la difesa degli ultimi e il rispetto della dignità di ogni uomo? Nella chiesa di alcuni decenni fa, nell'ambito delle nostre comunità, era diffusa una bella frase, che era stato lo slogan di un famoso convegno ecclesiale tenutosi a Palermo. «Ogni uomo è mio fratello». Anche questo lo consideriamo buonismo dal quale affrancarci? Temo che se oggi volessimo rilanciare quella frase, dovremmo riformularla così. «Ogni uomo è mio fratello, a meno che...» E giù una serie di distinguo più o meno capziosi. Lucio. I vescovi, franceschini e tutti quelli che pensano che sia sbagliato rispedire a casa gli immigrati, come mai non organizzano, pagano e gestiscono direttamente loro i centri di accoglienza, evitando ai contribuenti italiani di pagare dei periodi di soggiorno a questi signori? Stefano. Caro direttore, tempo fa andai a fare domanda per un posto di autista in un'azienda municipalizzata di trasporti pubblici a Verona, città nella quale vivo da 20 anni. Dopo aver esaminato tutto e dopo aver appurato che ero qualificato per quel posto, l'addetto mi guardò in faccia e scherzosamente mi disse: «Ma secondo lei chi salirà sull'autobus vedendo uno di colore al posto dell'autista? Mi dispiace, ma non sei quello che cerchiamo». Fui deluso, stupito, perché non potevo capire il vero motivo del rifiuto, dato che ero cittadino italiano, anche se di origini africane, con moglie e figlio italiani. Ora faccio il camionista. Un paio di settimane fa mi fermai davanti a un ristorante a Isola della Scala, in provincia di Verona. Erano le 14. Entrai e chiesi di poter pranzare. La titolare mi disse: «Abbiamo spento tutto». Dopo 9 ore di guida ero molto affamato e chiesi se potevo avere almeno un panino. Mentre stavo aspettando davanti alla cassa, entra un signore, italiano e bianco, e la titolare gli chiede: «Vuole mangiare?». Nel frattempo arriva il panino e il cuoco, sentendo la titolare, chiede: «Ma non avevamo spento tutto?». La signora, dopo questa pura dimostrazione della propria intolleranza per il fatto che uno nero mangiasse nel suo ristorante, rispose, guardando me: «Beh, lui ha solo chiesto un panino», e se ne andò di colpo in cucina. Io, stordito per quello che era successo, me ne uscii deluso, senza riuscire a capire il vero motivo di tutto questo. Ora lo capisco, caro direttore. Molto chiaro e forte. Dopo che un presidente del Consiglio ammette la sua contrarietà all'idea che persone di altre origini possano inserirsi dignitosamente e legalmente nella società italiana, non posso che capire perché mi devo alzare e cedere il posto sul tram al milanese DOC. Sono certo che arriverà un giorno in cui anche l'Italia intera dirà no alla Lega, perché il mondo cambia. Ecco perché un afroamericano è diventato presidente. Kofi, Verona. Caro direttore, sul problema immigrati, chi scrive la propria opinione sui giornali, o ne parla in TV, non è il popolo, pardon, la plebe, che con gli immigrati deve convivere tutti i giorni, ma sono gli intellettuali, i politici, i religiosi, quelli, tanto per intenderci, dei valori non negoziabili. Di che valori si tratti, io mi sono fatto una certa idea. Infatti, questa gente non vive certo in zone dove dopo le 20 vige il coprifuoco, e neppure in condomini dove alle 2 di notte ti tocca sentire uno stereo con neni e arabe a tutto volume. Dove, se al piano di sopra abitano extracomunitari, hai finito di vivere, e il palazzo è soffocato dall'olezzo di quella cucina esotica che i sovrammenzionati intellettuali, politici e religiosi hanno assaggiato solo all'estero, in hotel di lusso. Ci sono zone dove gli stranieri, dopo l'ennesima birra, fanno i loro bisogni ovunque, anche sulle scale dei condomini. E la mattina le strade sono disseminate di defecazioni, vomito, bottiglie e lattine. Adesso che, dopo averne accolti centinaia di migliaia, un ministro vicino alla gente comune, pardon, alla plebaglia ignorante e razzista, riesce a rispedirne 200 in Africa, apriti cielo. E le anime candide sono in rivolta. È stato violato quel recinto di valori di cui si sono circondati per non vedere la realtà, nuda e cruda. Quando non c'è un buon equilibrio fra etica e uomo, e ognuno prevale sull'altro, vuol dire che sono in arrivo grossi guai. Edoardo. Vorrei poter intervenire in merito alla recente polemica circa i medici spia, le ronde, i presidi spia. C'è qualche altra spia di cui mi sono dimenticata? Perché spia? Il medico, così come il preside di una scuola, operano nel settore pubblico, gestendo con il loro buon senso gli strumenti che lo Stato, e cioè noi coi soldi delle nostre tasse, dà loro. Non denunciare la presenza di un clandestino, di una persona cioè che non partecipa in alcun modo al benessere dello Stato, che non si fa carico dei diritti e doveri come ogni cittadino italiano, mi scuso per la durezza dell'espressione, significa non avere rispetto della cosa pubblica. Siamo veramente convinti che un atteggiamento omertoso, che ignori la necessità di segnalare la presenza di clandestini o di intervenire direttamente sulla sicurezza, sia quanto di meglio possiamo fare? Scusate la retorica, ma penso che lo Stato siamo noi. Noi decidiamo come migliorarlo. Noi dobbiamo renderci veramente partecipi alla vita pubblica, denunciando in prima persona le cause del nostro malessere. Questo non significa solo lamentarsi se c'è troppa fila agli sportelli degli uffici pubblici, ma anche denunciare chi delinque, chi non paga le tasse, chi ignora le sacre regole del vivere civilmente in una comunità. Claudia. Sono molto distante dalla proposta avanzata dalla Lega sui posti nel metrò riservati ai milanesi. Però ho due figlie che evitano alcuni mezzi pubblici e quando possono usano l'auto o fanno lunghi tratti a piedi per non utilizzare alcuni tratti della metrò e soprattutto la linea 90 e 91, perché si sentono in terra straniera e sono spesso oggetto di maleducazione. È comunque un problema reale e da risolvere, non nel modo proposto. Stiamo alimentando razzismo senza però risolvere questi problemi. Nando, Milano. A Tokyo, per motivi di sicurezza e di tutela sulle donne, da un certo orario in poi vengono riservati dei vagoni della metropolitana solo alle donne. L'ho verificato personalmente l'estate scorsa, in vacanza in Giappone. Nessuno ne fa un problema, anzi, la cosa è apprezzata. William. Brunetta non ha detto che i vescovi non possono parlare, ha detto da che pulpito viene la predica. Ha dato un giudizio sul fatto che ai loro pedofili non hanno chiesto sobrietà. Poi ognuno può trarre le proprie conclusioni. Elena. Voglio raccontare un amore tra madre e figlio un po' diverso. Da giovanissimo ho cercato di evadere dalla famiglia, come facevano in molti nell'anno 65, alla ricerca di qualcosa che non sapevo neanch'io cosa fosse. Quando i miei genitori sono rimasti soli perché mia sorella più piccola si è sposata, è successo qualcosa di strano. Io ero considerato il figlio sul quale i miei genitori avevano perso ogni speranza, dato che mi facevo sentire raramente. Ero stato a Londra, Monaco e Parigi e stavo per partire per Hong Kong. Poi sono tornato dai miei genitori con la voglia di rimanere con loro fino alla fine dei loro giorni. Non so cosa sia successo, ma l'esperienza estera mi ha trasformato. L'amore che non ho avuto durante la mia crescita l'ho trasformato in gratitudine verso i miei genitori per averci dato la vita. Tutti i gesti affettuosi che non avevano potuto darci tutti i giorni, dato che lavoravano, sono riuscito ad averli in quel momento, compiacendomi come se avessi avuto 10 anni, anziché 30. Ho amato e sono stato amato, ridando la voglia di vivere a mio padre e a mia madre. E mi considero davvero fortunato. Rifarei tutto. Adesso i miei genitori non ci sono più. Forse nel dare amore si riscopre parte di se stessi. Non comprendo come si possa fare a meno dei genitori, o ancora peggio, non amarli anche per il solo fatto di averci dato la vita. Antonio. Ascoltando la vostra radio, mi rendo conto dagli interventi degli ascoltatori che Berlusconi è veramente lo specchio dell'Italia. Molti, non dicendolo, pensano: Berlusconi ha fatto benissimo. Magari potessi anch'io. Chi si illude di far crollare Berlusconi con una vicenda come questa ha un'opinione troppo alta degli italiani. In realtà, forse questa vicenda farà crescere la sua popolarità e l'ammirazione della quale gode da parte del popolo italiano. Di Veronica tra un po' non sentiremo più parlare. Di Berlusconi invece sì. L'Italia nell'ultimo quindicennio si è trasformata in questo. Facciamocene una ragione. E chi non è d'accordo, si rassegni. Se potessi, prenderei la nazionalità di qualunque altro Stato europeo. Mi arrendo. Viva l'Italia. Sandro. Gentile direttore, vorrei una sua riflessione sulle recenti polemiche che hanno interessato il nostro Presidente del Consiglio. Mi sembra che una radio come la vostra non dovrebbe limitarsi a dare le notizie, ma in casi come questi dovrebbe prendere decisamente posizione. Antonio. Caro Antonio, in merito alle polemiche, lei certamente si riferisce alle vicende personali e familiari che hanno coinvolto Silvio Berlusconi e che lo stanno portando al divorzio dalla sua seconda moglie, Veronica Lario. Penso che certamente la nostra radio, ma anche le televisioni e soprattutto i giornali, abbiano dato grande rilievo, forse anche troppo, a questa saga familiare. E quindi penso che ognuno possa farsi il proprio legittimo giudizio personale. Si può stare da una parte o dall'altra a condividere le ragioni dell'uno o le giustificazioni dell'altro. Non si tratta, tuttavia, secondo me, di assolvere o di condannare. Sarebbe meglio che vicende come questa non avvenissero, che le famiglie fossero unite e solidali, che i dissidi tra marito e moglie non si risolvessero nei tribunali o sulle pagine dei giornali. Ma il mondo è quello che è, non è quello che noi vorremmo che fosse. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.